salta e trascorre. Oh, sì, fu il suo cuor, libertà, libertà, libertà. Cervo che al mondo lieto s'incorre, cerca del fonte, salta e trascorre, salta e trascorre. Vado sì fa il suo cor, libertà. Cerva che al monte, cerca del fonte, lieto s'incorre, salta e trascorre. Vado sì fa il suo cor, libertà, libertà. Vado sì fa il suo cor, libertà, il suo cor, libertà. Il suo cuore libertà, il suo cuore libertà.